Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Settima puntata. Le furie di mio padre si scatenavano, oltre che sulla Paola e il giovane piccolo, anche sugli studi di mio fratello Alberto, il quale, invece di fare i compiti, andava sempre a giocare a football. Mio padre, fra gli sport, ammetteva soltanto la montagna. Gli altri sport gli sembravano o mondani e frivoli, come il tennis, o noiosi e stupidi, come il nuoto, dato che lui aveva in odio il mare, le spiagge e la sabbia. Quanto al football, lo calcolava un gioco da ragazzacci di strada e non lo annoverava nemmeno fra gli sport. Gino studiava bene e così pure Mario. La Paola non studiava, ma a mio padre non gliene importava. Era una ragazza e lui aveva l'idea che le ragazze, anche se non hanno tanta voglia di studiare, non fa niente perché poi si sposano. Così di me non sapeva neppure che non imparavo l'aritmetica. Solo mia madre se ne disperava, dovendo insegnarmela. Alberto non studiava affatto e mio padre, male abituato dagli altri suoi figli maschi, quando lui gli portava a casa una brutta pagella o era sospeso da scuola per indisciplina, veniva colto da una collera spaventosa. Mio padre era preoccupato per l'avvenire di tutti i suoi figli maschi e, svegliandosi la notte, diceva a mia madre: «Cosa farà Gino? Cosa farà Mario?» Ma nei riguardi di Alberto, che andava ancora al ginnasio, mio padre non era preoccupato. Era addirittura in preda al panico. Quel mascalzone di Alberto, quel farabutto di Alberto. Non diceva neppure quell'asino di Alberto, perché Alberto era più che un asino. Le sue colpe sembravano a mio padre inaudite, mostruose. Alberto passava le giornate o sui campi di football, da cui tornava sudicio, a volte con le ginocchia o la testa insanguinate e bendate, o in giro con i suoi amici e rientrava sempre tardi a pranzo. Mio padre si sedeva a tavola e cominciava a sbattere il bicchiere, la forchetta e il pane e non si sapeva se ce l'aveva con Mussolini o con Alberto, che non era ancora rientrato. «Mascalzone, farabutto», diceva, mentre la Natalina entrava con la minestra e la sua collera cresceva a mano che procedeva il pranzo. Alla frutta Alberto arrivava, fresco, roseo, sorridente. Alberto non aveva mai la luna ed era sempre allegro. «Mascalzone!» tuonava mio padre. «Dove sei stato?» «A scuola», diceva Alberto con la sua voce leggera e fresca. «Poi sono andato un momento ad accompagnare un mio amico». «Un tuo amico? Mascalzone che non sei altro! È il tocco passato!» Luna era per mio padre il tocco. E il fatto che Alberto rientrasse dopo il tocco gli sembrava una cosa inaudita. Anche mia madre si lamentava di Alberto. «È sempre sporco», diceva. «Va in giro che sembra un barabba. Non fa che chiedermi i soldi, non studia!» «Vado un momento dal mio amico Paietta, vado un momento dal mio amico Pestelli. Mamma, per piacere, mi daresti 2 lire?» Queste erano le parole che Alberto diceva in casa e non ne diceva molte altre. Non perché non fosse comunicativo, era anzi di noi il più comunicativo, espansivo e allegro, soltanto che in casa non c'era mai. «Sempre con Paietta, con Paietta, con Paietta», diceva mia madre, mettendo in quel nome una speciale rabbiosa rapidità, forse per indicare la rapidità con cui Alberto fuggiva. 2 lire erano anche allora una piccola somma, ma Alberto chiedeva 2 lire più volte nella giornata. Mia madre, sospirando, apriva con le chiavi il cassetto del suo comò. Ad Alberto i soldi non bastavano mai. Prese l'abitudine di vendere i libri di casa, così che i nostri scaffali a poco si vuotavano. E ogni tanto accadeva che mio padre cercasse un libro senza trovarlo e mia madre, perché non si arrabbiasse, gli diceva che l'aveva imprestato alla Francis, ma si sapeva bene che era finito su una bancarella di libri usati. Alberto portava anche a volte l'argenteria di casa al Monte di Pietà e mia madre, non trovando una caffettiera, si metteva a piangere. «Senti cosa ha fatto Alberto», diceva la Paola. «Senti cosa mi ha fatto. Non posso dirlo al papà, se no lo sgrida». E aveva una tale paura delle collere di mio padre che cercava le bollette del Monte di Pietà nei cassetti di Alberto e mandava la Rina a disimpegnare le sue caffettiere in segreto, senza dirlo a mio padre. Alberto non era più amico di Frinco, scomparso nella notte dei tempi insieme ai suoi libri terrorizzanti, e nemmeno dei figli della Francis. Alberto ora aveva Paglietta e Pestelli, suoi compagni di scuola, i quali però erano studiosi. Mia madre diceva sempre che Alberto si sceglieva amici che erano meglio di lui. Pestelli, spiegava mia madre a mio padre, è un bravissimo ragazzo, è di una famiglia molto per bene. Suo padre è quel Pestelli che scrive sulla stampa e sua madre è la Carola Prosperi, diceva lusingata, e per mettere Alberto in buona luce agli occhi di mio padre. La Carola Prosperi, scrittrice che a mia madre piaceva, non le sembrava poter essere inclusa nel mondo infido dei letterati perché scriveva anche libri per bambini e i suoi romanzi, quelli per adulti, erano, diceva sempre mia madre, molto ben scritti. Mio padre, che non aveva mai letto i libri di Carola Prosperi, alzava le spalle. Quanto a Paglietta, mentre era ancora un ragazzetto in calzoni corti al ginnasio, fu arrestato perché diffondeva tra i banchi di scuola opuscoli contro il fascismo e Alberto, che era tra i suoi amici più intimi, fu chiamato in questura e interrogato. Paglietta andò in carcere, in un riformatorio di minorenni e mia madre, lusingata, disse a mio padre «Vedi che te lo dicevo, Beppino». Vedi che Alberto e i suoi amici se li sceglie sempre bene. Sono sempre più bravi e più seri di lui. Mio padre alzò le spalle. Era però anche lui lusingato del fatto che Alberto fosse stato interrogato in questura e per qualche giorno si astenne dal chiamarlo mascalzone. Un barabba, diceva mia madre quando Alberto ritornava dal football, sudicio, coi capelli biondi intrisi di fango e coi vestiti strappati. Un barabba! Fuma e butta la cenere per terra, si lamentava con le sue amiche. Si sdraia sul letto con le scarpe, mi insudice alla coperta. Chiede soldi e non gli bastano mai. Era tanto carino da piccolo, si lamentava. Era tanto dolce, mite, era una pecorina. Lo vestivo tutto di trina, aveva quei bei riccioli. Adesso, guarda com'è diventato. Gli amici di Alberto e di Mario raramente comparivano in casa nostra. Gino, invece, i suoi amici li portava sempre in casa, la sera. Mio padre li invitava a fermarsi a cena. Era mio padre sempre pronto a invitare a cena o a pranzo la gente. E magari poi c'era poco da mangiare. Aveva sempre paura, invece, che noi scroccassimo pranzi in casa d'altri. «Hai scroccato un pranzo alla Francis? Mi dispiace!» E se uno di noi era invitato da qualcuno a mangiare e il giorno dopo diceva che questo qualcuno era noioso o antipatico, mio padre subito protestava. Antipatico? Però gli hai scroccato un pranzo? Le nostre cene di solito consistevano in una minestrina di Liebig, molto cara a mia madre, e che la Natalina faceva sempre troppo brodosa, e in una frittata. Gli amici di Gino, dunque, dividevano con noi queste cene sempre identiche. Poi ascoltavano intorno alla tavola le storie e le canzoni di mia madre. Fra questi amici ce n'era uno che si chiamava Adriano Olivetti. E io ricordo la prima volta che entrò in casa nostra vestito da soldato perché faceva quel tempo il servizio militare. Anche Gino faceva allora il servizio militare ed erano lui e Adriano nella stessa camerata. Adriano aveva allora la barba, una barba incolta e ricciuta di un colore fulvo. Aveva lunghi capelli biondo fulvi che s'arricciolavano sulla nuca ed era grasso e pallido. La divisa militare gli cadeva male sulle spalle che erano grasse e tonde. E non ho mai visto una persona in panni grigio-verdi e con la pistola alla cintola più goffa e meno marziale di lui. Aveva un'aria molto malinconica, forse perché non gli piaceva niente fare il soldato. Era timido e silenzioso, ma quando parlava parlava loro a lungo e a voce bassissima e diceva cose confuse ed oscure, fissando il vuoto coi piccoli occhi celesti che erano insieme freddi e sognanti. Adriano, allora, Sembrava l'incarnazione di quello che mio padre usava definire un impiastro. E tuttavia mio padre non disse mai di lui che era un impiastro, né un salame né un negro. Non pronunciò mai al suo indirizzo nessuna di queste parole. Mi domando perché. E penso che forse mio padre aveva una maggiore penetrazione psicologica di quanto noi sospettassimo e intravide, nelle spoglie di quel ragazzo impacciato, l'immagine dell'uomo che Adriano doveva diventare più tardi. Ma forse non gli diede dell'impiastro soltanto perché sapeva che andava in montagna e perché Gino gli aveva detto che era antifascista e che era figlio di un socialista, amico anche lui di Turati. Gli Olivetti avevano a Ivrea una fabbrica di macchine da scrivere. Noi non avevamo mai conosciuto fino allora degli industriali. L'unico industriale di cui si parlava in casa nostra era un fratello di Lopez, chiamato Mauro, che stava in Argentina ed era ricchissimo. E mio padre progettava di mandare Gino a lavorare da quel Mauro nella sua azienda. Gli Olivetti erano i primi industriali che vedevamo da vicino. E a me faceva impressione l'idea che quei cartelloni di reclame che vedevo per strada e che raffiguravano una macchina da scrivere in corsa sulle rotaie di un treno, erano strettamente connessi con quell'Adriano in panni grigio-verdi che usava a mangiare con noi la sera le nostre insipide minestrine. Terminato il servizio militare, Adriano continuò a venire da noi la sera e divenne ancora più malinconico, più timido e più silenzioso perché si era innamorato di mia sorella Paola, che allora non gli badava. Adriano aveva l'automobile. Era tra le persone che conoscevamo l'unico ad avere l'automobile. Non l'aveva allora nemmeno Terni, che pure era così ricco. Adriano, quando mio padre doveva uscire, subito gli proponeva di accompagnarlo in automobile e mio padre si infuriava. Non potendo soffrire le automobili e non potendo soffrire, come sempre diceva, le gentilezze. Adriano aveva molti fratelli e sorelle, tutti lentigginosi e rossi di capelli. E mio padre, che era anche lui rosso di capelli e lentigginoso, forse anche per questo li aveva in simpatia. Si sapeva che erano tanto ricchi, ma avevano tuttavia delle abitudini semplici. Erano vestiti modestamente e andavano in montagna con degli ski vecchi, come noi. Avevano però molte automobili e offrivano ad ogni istante di accompagnarci in un luogo o nell'altro. E quando andavamo in automobile per la città e vedevamo un vecchio camminare con passo un po' stanco, fermavamo e lo invitavamo a salire. E mia madre non faceva che dire com'eran buoni e gentili. Finimmo col conoscere poi anche il loro padre, che era piccolo, grasso e con una grande barba bianca. E aveva, nella barba, un viso bello, delicato e nobile, illuminato dagli occhi celesti. Usava, parlando, trastullarsi con la sua barba e coi bottoni del suo gilet. Aveva una piccola voce in falsetto, acidula infantile. Mio padre, forse per via di quella barba bianca, lo chiamava sempre il vecchio Olivetti, ma avevano lui e mio padre all'incirca la stessa età. Avevano in comune il socialismo e l'amicizia con Turati e si accordarono reciproco rispetto e stima. Tuttavia, quando si incontravano, volevano sempre parlare tutte e due nello stesso momento e gridavano, uno alto e uno piccolo, uno con voce in falsetto e l'altro con voce di tuono. Nei discorsi del vecchio Olivetti si mescolavano la Bibbia, la psicanalisi e i discorsi dei profeti, cose che nel mondo di mio padre non entravano assolutamente e intorno alle quali, in fondo, lui non s'era formata nessuna speciale opinione. Mio padre trovava che il vecchio Olivetti aveva molto ingegno, ma una gran confusione nelle idee. Gli Olivetti abitavano a Ivrea, in una casa chiamata il convento, perché era stata in passato un convento di frati, e avevano boschi e vigne, mucche e una stalla. Avendo quelle mucche, facevano ogni giorno dolci con la panna. E a noi la voglia della panna era rimasta fin dal tempo che mio padre, in montagna, ci proibiva di fermarci a mangiarla negli chalet. Usava a proibircelo, fra l'altro, per paura della febbre maltese. Là, dagli Olivetti, che avevano quelle loro mucche, il pericolo della febbre maltese non c'era. Così noi da loro ci sfogavamo a mangiare panna. Tuttavia mio padre ci diceva «Non dovete farvi sempre invitare dagli Olivetti, non dovete scroccare!» Perciò avevamo tanto l'ossessione di scroccare che una volta Gino e la Paola, invitati a Ivrea a passare la giornata, nonostante le insistenze degli Olivetti, rifiutarono di fermarsi a cena e anche di farsi riaccompagnare in automobile e fuggirono via digiuni, aspettando il treno nella notte. Un'altra volta capitò che io dovessi fare con gli Olivetti un viaggio in automobile e ci fermammo per il pranzo in una trattoria. E mentre tutti loro ordinavano tagliatelle e bistecche, io ordinai per me solo un uovo a bere e dissi poi a mia sorella che avevo ordinato solo un uovo perché non volevo che l'ingegnere Olivetti spendesse troppo. Questa cosa venne riferita al vecchio ingegnere, che ne fu molto divertito e usava riderne spesso. E nel suo riderne c'era tutta l'allegria d'essere molto ricco, di saperlo e di scoprire che c'era ancora qualcuno che non lo sapeva. Quando Gino ebbe finito il Politecnico, gli si aprivano due possibilità. O andare a lavorare da quel Mauro, che aveva l'azienda in Argentina e che noi chiamavamo familiarmente lo zio Mauro, imitando i ragazzi Lopez. Mio padre da mesi teneva con lo zio Mauro un assiduo carteggio in cui trattava dell'avvenire di Gino. Oppure andare a lavorare a Ivrea, nella fabbrica dell'ingegnere Olivetti. Gino scelse quest'ultima soluzione. Gino dunque lasciò la nostra casa e se ne andò ad abitare a Ivrea. E pochi mesi dopo annunciò a mio padre di aver conosciuto là una ragazza e di essersi fidanzato. Mio padre fu colto da una collera spaventosa. Mio padre sempre, ogni volta che uno di noi gli annunciò di essere sul punto di sposarsi, fu colto da una spaventosa collera, chiunque fosse la persona prescelta. Un pretesto lo trovava sempre. O diceva che la persona da noi prescelta era di salute gracile, o diceva che non aveva soldi, o diceva che ne aveva troppi. Ogni volta mio padre ci proibì di sposarci, senza ottenere nulla, perché tutti ci sposammo ugualmente. Gino allora venne mandato in Germania per studiare il tedesco e per dimenticare. Mia madre gli raccomandò di andare a trovare a Friburgo la Grassi. La Grassi era un'amica d'infanzia di mia madre ed era quella che diceva «tutta di lana Lidia» e «le violette Lidia». La Grassi aveva conosciuto a Firenze un libraio di Friburgo e l'aveva sposato. E lui le leggeva Heine e le aveva anche insegnato ad amare le stoffe tutte di lana, portandola in Germania dopo la guerra 15-18, essendo in Germania la lana pura dopo la guerra introvabile. Il libraio, tornando a Friburgo dopo la guerra, aveva esclamato «Non riconosco più la mia Germania». Frase rimasta famosa in casa nostra e che mia madre usava declamare ogni volta che le succedeva di non riconoscere qualcosa o qualcuno. Mio padre, quell'estate, dalla montagna, tenne un lungo carteggio e con Gino in Germania e con i Lopez e i Terni e con l'ingegnere Olivetti, sempre a proposito di quel matrimonio. E ai Terni, ai Lopez, all'ingegnere Olivetti, mio padre scriveva che dovevano dissuadere Gino dallo sposarsi a 25 anni e senza ancora una carriera avviata. «Chissà se avrà visto la Grassi», diceva ogni tanto mia madre pensando a Gino quell'estate. E mio padre si infuriava. «La Grassi, mi importa assai che abbia visto la Grassi. Sembra che in Germania ci sia soltanto la Grassi. Non voglio assolutamente che Gino si sposi». Gino, tuttavia, si sposò al suo ritorno dalla Germania, come aveva dichiarato che avrebbe fatto. E mio padre e mia madre andarono al suo matrimonio. Però mio padre, svegliandosi nella notte, ancora diceva «Se l'avessi mandato in Argentina da Mauro invece che a Ivrea, chissà, forse in Argentina non si sarebbe sposato». Avevamo cambiato casa e mia madre, che si era sempre lamentata della casa di via Pastrengo, ora si lamentava della nuova casa. La nuova casa era in via Pallamaglio. «Che brutto nome», diceva sempre mia madre. «Che brutta strada. Non posso soffrire queste strade. Via Campana, via Saluzzo. E almeno in via Pastrengo avevamo il giardino». La nuova casa era all'ultimo piano e guardava su una piazza dove c'era una brutta e grossa chiesa, una fabbrica di vernici e uno stabilimento di bagni pubblici. E a mia madre nulla sembrava più squallido che vedere dalle finestre uomini che entravano ai bagni pubblici con un asciugamano sotto il braccio. Mio padre quella casa l'aveva addirittura comprata perché diceva che costava poco e che non era bella, ma aveva dei vantaggi. Era molto vicina alla stazione ed era grande, aveva tante stanze. Mia madre disse «Cosa importa che siamo vicino alla stazione, noi che non partiamo mai?» Qualcosa doveva essere migliorato nelle nostre condizioni economiche, perché si parlava un po' meno di soldi. Le immobiliari, loro, scendevano sempre a sentire mio padre e a quest'ora dovevano essere, io pensavo, inghiottite nelle profondità della terra. Tuttavia, mia madre e mia sorella si facevano più vestiti. Adesso anche noi avevamo il telefono, come i Lopez. Le parole «caro viveri» e «caro pane» non venivano pronunciate più. Gino abitava con sua moglie a Ivrea. Mario aveva un impiego a Genova e solo il sabato veniva a casa.